Sì, sì, una vitaccia, infatti, non pensare che sia bella, è una vitaccia perlomeno. Io entravo tra Zialidezzi e uscivo all'otto di nuovi. E Billy, su che andiamo? Mi abbattirimi. No, dai, magna cazzo piena di aghista, non ti guardi che trovi in panificio, uia, per carità. Guarda, lo sto aspettando. Ehi, affetta mortadella. Viaggi come, basato. Antone. Ehi. Il venerdì lo chiamavamo per la doppia, no? A Manuele. Oh, era più che si mangiava di bene che si travagliava. Già lo immagino. Se ci hanno i guazzi e duragliavo con la mortadella in mano. I pienati, perché noi facevamo spienate, non li pavidemmo. E due candici anni da un forno, perché avevamo il forno a nastro, e abbiamo che c'entrava le pienate in bocca. E per mangiando, sapete quello che c'è la pancetta, c'è ancora? Non era il dunque. Arrivava la fetta di maghida. Le metteva in frigo, lo metteva. Si tintava i manini, come ti siano i guazzi, uia. Ma li va zero vento, li va zio. Cro, cro. Ui, uia. E sino che andesse a pane, il pane con la cipolla, no? Che quello era contatto, però. Insomma, li va zio a grossi, boh. Di giorni che si hanno mangiato, di zia, la settimana mattina. Però la cipolla è buona, mica, quanto mi piaceva a me. Alla Madonna lo prendevo, quando scendevo a farmi due o tre mesi la mia zia. Mangiavo pizzette con le quadrate e il pane a cipolla lì nella piazzetta. Ma poi a noi che ci separava dalle spianate ai panini e quelle robe lì, era la rivendita, no? Sai che in mezzo c'era la rivendita, però loro il pane... La reparto panini, quando le toglieva, le ceste piene e calde, le portava lì nella rivendita, non le tenevano dentro, le portavano nella rivendita, no? Che poi la mattina entravano gli autisti e si facevano il carico. Ma profumo di tutto, dal tondo, focacce, di tutto di più, guarda, oh yeah. Tu figurati quando c'è la calvia. Mandava mamma a comprarmi a prendere un chilo di pane, mezzo chilo arrivavo a casa, altro mezzo chilo me lo mangiavo in viaggio, prima di arrivare a Portone. Ah no, ma c'è più il pane buono di una volta, no? Forse in qualche paese ancora continuano a farlo, ma in oggi E il pane caldo da buono, cazzo, come ci scendeva a me. Mezzo chilo da sopra ne mangiavo, mamma, vuoi pranzare? No, ho già pranzato, ho fatto colazione io letto. Sì, il pane quando è caldo uscito dal forno è una cosa eccezionale, anche senza niente, mangiato così è eccezionale. Ma quando baci in bagno, invece adesso, oh lui, ecco mi sono ricordato che pane era, certe volte prendevi, adesso spendere poco, queste specie di baguette fatte in Romania che poi lì sono scongelate, c'è un abominio, no? Quelle di Lidl. Allora quelle se non le mangiavi diventavano dure, ma dure, poi leggere, sembrava pietra pomice, te le tiravi al marmo qua, del mobile, a Giuma si spacca il marmo, per carità. Ehi, quelle sono buone, infatti appena sfornate, boh, già 4-5 ore dopo, invece appena sfornate le baguette sono buone, come tutto il pane d'altronde. Ma quelle dice che le fanno in Romania o quelle parti là, le congelano, ci arrivano congelate e loro le scongelano, che porcheria è? Io credo che le facessero loro, nel forniti loro, invece cosa fanno? Le scaldano, che schifo. Ma poi la cosa strana appunto diventava duro, peggio del legno, leggera sì, ma la tiravi a terra e non si rompeva la baguette. Ma le fanno anche qua in Italia, le fanno. Le fanno e poi le congelano e le mandano ai supermercati. Sì, sì, l'importante è che sia fatto qua, no? A Chernobyl. E ormai è un pane che piace la baguette, capito? È un pane che piace. No, io gli amo il vozzo invece quando è. Ahí vi sto facendo il forno, fuori. Me lo faccio io. Tondi non ne faccio perché intanto è un pane troppo grande, capito? Faccio le piccole invece, quando me le congelo, poi quando sono fredde me le congelo. La baguette va bene nel cuocere o solo me? Ehi, allora, Antonello, anche se è tagliata la metto lo stesso. Tipo salvadanaio. Ma quello poi salame poi? Intero. Ben rientrato, Antu. Cosa? Ho detto ben rientrato. Stiamo dicendo. Avanti, Luca, lo senti Antonio? Sì, chi è Antonio? Antonio Delta 1. Si era messo il microfono amplificato e sta uscendo con quel baracchino di Ares. Con il microfono amplificato, la tavola. Non l'avevo riconosciuto, no. Ciao Antu, non l'avevo riconosciuto appunto perché ha cambiato proprio di brutto. Che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare? In ogni posto hanno le loro, i loro ingredienti, poi i loro segreti, eccetera, eccetera. Perché la baguette che fanno loro rimane più grossa e più anche più corta, non è così lunga come quella che fanno in Italia. Comunque non è un granché quella che vendono nei supermercati, no. Dopo un giorno diventa dura una pietra. Che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare? Marco, ancora ci sei? Ehi, avevo visto in un documentario, roba francese, erano anni 60, credo 50-60, i francesi comprando la baguette, magari te la davano o con un pezzo di carta a metà o senza niente, i francesi se la mettevano sotto braccio, no, per portarsela, ma non sotto braccio all'altezza del gomito, sotto l'ascella. Cioè, metti che uno abbia fatto la spesa tutta la mattina, è andato a piedi, anche se c'è la camicia, la giacca, un po' avrei traspirato. Mi ha fatto così schifo quella cosa, poi ce lo mangia di burro. Non hai visto quel tipo che fa quella specie di si prende l'impasto, ah, l'ascella nuda, si prende l'impasto, se lo passa sotto le ascelle e poi lo butta nell'olio. Sì, non so come fanno a mangiare lì queste robe schifose, chi si brodaglia in carriera, vendi, pappa, via. Ah, ma tipo India, io ho visto gente, sì, prima impastando roba, facendo roba a mani nude, poi a un certo punto gli viene prurito, si infila la mano dentro i pantaloni, dentro i jeans, e si stava grattando il buco del sedere. E poi ritornando con la stessa mano, senza pulirla, né igienizzarla, a mettere la... Ma non ti innandi. L'incubo dei nasce, c'è un ragazzo che fa questo video, non so se l'hai mai visto, insomma, ma veramente, anche facendo pane comunque, quel pane tutto piatto che fanno loro, però se guardi come lo fanno, in mezzo alla sporcizia, è una cosa incredibile. Sì, ho visto fare anche delle specie di impasti per terra, cioè loro camminando già mezzi con i boxer, mezzi nudi, con questi piedi che non capisce se sono, con quella pelle scura non capisci mai se siano puliti o no, ma mi pare proprio di no, facendo questa specie di, come gli impasti che fai tu, però per terra, grandi, cioè dove camminava, una cosa, infatti certe volte quando qualche occidentale va in India, a seconda di cosa mangia, sta male veramente, ma male, rischi pigliarti roba che a loro non fa niente, perché sono abituati, tipo i topi, ma se si vuole un occidentale ci resta anche secco. Ma per carità, e poi con le unghie dei piedi ci fanno anche i ricami nel pane. Ah, mamma mia. Sì, io capisco il cibo di strada, ma nemmeno in Thailandia ho visto roba del genere. In Thailandia sembra già tutto un po' più ordinato, in Cina un po' più ordinato, tra virgolette. Poi bisogna vedere la materia prima, come è stata trattata, se il pesce, che ne so, se hanno abbattuto il pesce per ammazzare i parassiti dentro, eccetera. Ma in India è terrificante, non... Altro che, poi dicevano a quel signore della Fainetti, ricordi quello di Piazza Azzurri, diceva che si grattava le balle, poi Ma in India è terrificante, è una cosa folle. E i topi non li hai visti sopra la roba da mangiare, camminando sopra di loro, mentre loro fanno il pane, fanno queste tutte prelibatezze? Maravilla. Quello è l'ingrediente segreto, è quello, è la pupù del topo. Loro ti dicono che sono capperi indiani quelli. E olive con l'osso. Olive e nocciolate, per carità. Con il boccio al naso, buono, buono, buono. Avanti a tu. E vabbè, già siamo qua, che problema. Per carità. Te lo dico di a cosa, a quello faceva i dati. Come vediamo, quello di Avo, sì, al centro storico, quello per carità. Flavio. Ehi, a Flavio, te lo ricordi? Infatti non c'è la mappina nessuna, perché hai girato lì. Guarda, l'unica volta che ci avevano portato era in prima media. L'insegnante di italiano ci ha portato a vedere il centro storico, che all'epoca comunque era un paradiso rispetto a come adesso, e ci aveva portato la famosa gelateria Flavia, no? Che costava poco, mi pare era, non so se 100 lire ogni pallina, no? Sai, con quell'affare che fa l'emisfera, no? La pallina. Però io da bambino non sapevo che ogni tanto trovavi i peli del braccio, qualche caccola del naso, un po' di cerume. Boh. Qualche ciondolo d'oro. Come? Qualche ciondolo d'oro, era tutto pieno d'oro. E a trovarlo almeno il ciondolo d'oro nel gelato. Di solito si diceva, poi vabbè, la gente lo sai che ingrandisce anche a dismisura. I braccialetti antidolori che insieme che aveva, te li ricordi? No, io non posso ricordare, ero troppo piccolo. E una volta Antonè, Sandro Satellite, aveva visto, aspetta, dov'era? Era, credo, un pizzaiolo di, porca miseria, non mi ricordo la via, forse era una traversa di Viale Dante o cos'era. Guarda, non lo ricordo, dice che gli stava facendo un impasto alla piena, gli cade per terra, sai, era un po' nelle retrovie, che lo vedi e non lo vedi, gli cade per terra l'impasto, questo tira una bestia tipo la massa che ha fatto, lo raccoglie, lo rimette sul piano e continua a impastare. Poi esce lì alla soglia, a Sandro, dice, beh, voce, canto di voi, voce. Figurati, alla Viette, se te lo ricordi, quando eravamo alla Viette, te lo ricordi che c'era Falcone, c'era quel tipo che in pratica faceva le pizze, quello stesso lavava all'interno, nero, quel cartone, non si dava mai anche le mani, poi leva le pizze e faceva le pizze. No, io con Paoletto in pizzeria non sono mai andato, non mi piaceva. Sì, potevo pagarmela io, però non mi piaceva, perché molti andavano a sfruttarlo, mi hai capito? E non so, qualcuno prima ci faceva invitare la pizza, poi lo riportava a casa, lo riempiva di insulti e lo lasciavano sotto casa sua, capito? Ah, io già mi facevo dare soldi contanti prima, li spendevamo tutti e poi li accompagnavo tranquillamente a casa. E poi mettevo lo stecchino del campanello. Che delinquenti, cazzo. Poi quando finivano gli stecchini, ti ricordi, un rametto, tutto il rametto nel campanello, c'è. Cazzo, non sai quanti amici c'ha, cazzo, Roberto Belli Gavilli, 5.000 ne ha, cazzo, fuori di testa, cazzo. No, come, aspetta che mi è caduta l'acqua, non ho sentito, ripeti. Allora, mi è arrivata la richiesta di amicizia di Roberto Fanti, che sarebbe in pratica Roberto Belli Gavilli. Mi è uscito un messaggio da parte delle cose, dice, è impossibile raggiungere questo amico perché ha raggiunto il limite di 5.000 amici. Cazzo, persone c'ha, cazzo. Eia, Luca si è sentato un attimo, ha detto, Eia, e vabbè, perché ci tieni molto a averlo come amico, insomma, non è che... Non è una bella presenza, vabbè. Ah, me l'ha data lui l'amicizia, siccome lo conosco, quando ci vediamo da qualche volta da ricco, capito? Mio fratello bene, io farò bene anche io. Mi fa ridere perché parla veloce, parla, e a volte non si capisce una fanculo di quello che dice. Poi piace la timbrica, aspetta, io te lo faccio più rallentato. Venga, come ti anda? Più o meno così fa, Cosa ridda, Oh, Iuia. Sì, ogni tanto qualcuno ci fa la foto con Roberto, poi la manda, la fa girare, eccetera. Ma magari non chiedono né consenso né niente, così, vabbè. Lui è già contento così. Ah, quello sì. C'è un chiamato DNX 3720 digital analogico. Non ho capito se è VU. Poi c'è un VHF, questo è un ripetitore che stanno dando 50 watt. TYT, THR 9050 watt. Già assemblato, ho fatto a agganciare, c'è la vera tipo valigetta, ragazzi. Eia, ah, poi avevo chiesto, quello di Gianni era marcato Intec, quello di doppio room era marcato Intec, quello kit valigetta, però non potevi avvitare l'antenna sul portatile, la potevi mettere solo come base magnetica, quella era molto limitante. Eia, infatti, già me lo so, io uno che assomiglia a quello, te lo ricordi, quello che c'era a me, quello cinese, l'IC718, alta potenza, 100 watt, HF. Aspetta, come si chiamava quell'amore perduto tuo cinese famoso, di cui ti eri innamorato? Quello senza VFO, che era praticamente un HF marino, non VHF, perché ascolta, HF marino, era il Feitong, mi pare. Sì, Feitong 888, se non ricordo male. E qualcosa del genere, sì. E lì praticamente, sì, c'avevi... Avevo letto anche quali erano le frequenze HF marine, no? C'erano anche i canali d'emergenza, non so, uno sugli 80 metri, pare, uno sui... Cioè, intorno, adesso non proprio amatoriale, ma vabbè, siamo lì. Poi mi sono dimenticato tutto. C'era una marea di liste, di fogli di testo con le frequenze più usate, poi tutto perso, tutto nella mondezza è finito. Però la soddisfazione a cavolo, come quel CB che se l'era ordinato, averla, provarlo, poi magari uno se lo poteva rivendere se non era soddisfatto, però era avere un oggetto particolare e usciva bene pure. Eia, ci sono un sacco di ponti d'aria qui su Alibaba, Recent RS900R, lunga distanza. C'è la valigetta, tac, ci sono due apparecchi, uno sopra e uno sotto. L'alimentatore accoppiato, c'è un sacco di roba su Alibaba. C'è anche il Reti, visto Motorola, LV2, TIT, portatili, tutto pieno di roba. Bubu. Eia, oggi non si affaccia nessuno, non c'è Antonio, forse sta lavorando, Natalino, magari sta ascoltando. Gianni sa cos'è, Gianni entra tardi per esempio, lo più rumo entra tardi. Per esempio quel giorno che siamo stati 3 ore e mezza in radio, come abbiamo spento noi alle 6:30, abbiamo spento noi alle 7:20, ha acceso lui e dice non vedo un'anima, perché alla fine eravamo stanchi. Però ti volevo dire Antonio però di quegli apparati di prima, tu mi parlavi che si trovano gli Egg in quinto, si trovano gli LMS200, il problema Antonio è che aveva senso comprarli anche negli anni 90, primi 90, ma ormai sono vecchi di 40 anni, sono parecchi vecchi. Sì, magari ti dura altri 40 anni, magari ti dura 40 minuti e visti lo lampi. Io ci sono sempre, vi sto ascoltando. Antonio, perché stai arrivando così basso? Ma stai usando l'antenna interna? Io sono con 4 watt solo, e l'antenna solita del tetto. No, Antonello. Io sono con le 4.000 sto scendo. Normalmente arrivavi bene come segnali, la radio bella piena, però stai arrivando un po' bassino e poi non so. di apparecchio o di antenna? No, tu mi devi tre qui, figurati. Antenna, boh, sembra a posto, sembra. Non sto uscendo col chemo, sto uscendo con lo liscio, hai capito? Se attacco il 3009 non ti sento più. Perché perde un sacco di QRM, ma il chemo lo prende un sacco di QRM. Il 3009 con le 4000 almeno questo qua è perfetto. Figurati. Ti sento abbastanza. Sono un FM ti ascolto meglio. La verità con chi vuoi? Non succede niente. No, perché ormai che ti sento un pochettino più forte anche come radio. Capito. Comunque già sono qua, io mi sto ascoltando. Ogni tanto mi arrivano le telefonate, così che devo mollare un attimo l'apparecchio. Aspetta, cambio il microfono. Metto quello da tavolo, aspetta. Provo a fare così a vedere. Questo qua è il... Bello, lascia questo. Lascia perdere quel microfono. In carità, se dai fuoco di fischi, fischiettini. Tutto a fischi esco, adesso sto uscendo meglio. Apposta che hai detto. Che c'è che ci sono abitati? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e adesso non sta fischiando. E attention please, if you copy Italy. Attention please, if you copy Italy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, adesso usando l'altro. If you did, this is the Russian station, over. Ora, già sto uscendo. Questo è il CM40, beh, mi ascolti meglio con questo pianto. Questo microfono da tavola, questo qua, il CM40. Preparazione c'è, fuori di testa, i russi senta. Santiago 9, cosa vede? Ci stanno invadendo i russi? Ok, segnale 9 se mi hai fatto questo. Segnale 9 tondo. Cazzo, una cosa vicina. Ci sostiamo un attimino, perché con questi qua non si capisce niente. Hola, Tavarish. Cop Italia. Tavarish, Cop Italia. Attention, please, if you copy Italy. Devi chiamare vodka. Eia, vediamo se Delta mi copia meglio. Dovrei aver migliorato come segnale. Sì, che vai meglio. Sei più un pochettino migliore come radio anche. Che mi fa da ponte che me lo coprono. Ripeti, Anto, ripeti che qua stanno arrivando segnali forti. Parlate insieme. Ehi, cosa hai detto prima? Che me lo stanno coprendo. Avanti, Anto. Ha sentito Marco? No, volevo sapere da lui se ho migliorato io rispetto a lui. Ha detto se ho migliorato da parte tua a tu. Oh, sì, è migliorato da parte mia, va benissimo. Ha detto che va benissimo da parte sua. Eia, già funziona tutto qua, da l'assorbimento sembra quello giusto. Va bene, però devo andare in bagno perché me la sto facendo addosso. Riprendi Antone. Sai che mi ha chiamato un attimo Simona, sono diventato subito. Ha detto, però poi non si è capito più niente, non ci ho capito più niente. Tonello! Non avrei turbato, buon Tonello! essere fatto il neutro, ma siamo il business che io mi sono già uo. Ma secondo te questo è russo o rumeno? Ah, ma i russi, boh. Mi assento anch'io, si sono sentati gli altri, ma tu, mi assento anch'io. Sì, lo so che si sono assentati, uno è andato in bagno, Antonella, un po' che sono andato a combinare con lui, non lo sto verificando. No, io non so, mi sono messo un po' mi sembra, non so, non riesco a capire bene la loro lingua. Машины будут загружены, вот лодка, столы, вебланы, да ну, прям смотрите, на дверь, вот если ты не достал, буду на коленках, там вот кормушку, карманы сейчас возьмем, у меня столик, там все организовано, туда корма, туда червяка, блин, не на корячку же, например, потеншую там напротив, ребят, стояли, у них дом прям на воде, на... я не там хотел, ну, и листы не поймали, но главное, когда это, у них там... требовалось прикормить это место. Они выводили какой-то корабль, он доплывал до нужного места, там самосвал какой-то, вываливал, блядь, это корма, и корабль уплывал домой, например. Горизонтально, на каждый день не подключен к электронному движению, и это каждый день не подает. Нет, это не... Ce ne manca nessuno? Sì, ci siamo, ci siamo. So, ci sono i russi che ho rumeni, stanno a rompere la palla. A momenti, perché sai, un po' a fine serata comincia a allungarsi la propagazione, comincia a arrivare Europa e tutto. Poi, adesso sono un chilo più leggero, bene. Ma poi questi non sentivano mai frequenza, tutta la volta sono intesi i rumeni, i russi. Prima non sentivi niente di queste persone, forse perché erano un po' di libertà adesso. Anto, purtroppo no, non capisco tutto perché ci ho segnali sotto. Luca non c'è più, Antonello non c'è più, no? No, Luca mi sembra che sta ascoltando. Недавно какой праздник был, мы, конечно, стреляли на всех фейерверками, плавали потом продолжить на катамаране. Не знаю, какого ранного он размера, но он вроде тебя вот. Червоны сюжетники, где ты рвало спарато, спарато, спарато. О, Анто. Ma io ho provato a fare l'escursione col clarifier. Io sento gente che arriva veramente forte, non a 0,75 dove siamo noi, no, ma a 0,80. E c'hanno lo zero finale come canale. E quella è la canalizzazione polacca però. A me sono sembrati polacchi. Se tu c'hai il clarifier e metti a 0,80, senti queste voci, ma segnalonimi. All'11 ce n'è uno che sta arrivando sparato, come se fossimo noi parlando qua in queste ore. Hola, hola. Scusa, sono tornato, stavo provando, sono peraltro mi pare che siano in FM i polacchi, sono a 0,80, ma in FM, ho provato a fare ola ola, ma loro sono in ruota tra loro, quindi manco mi sentiranno, o comunque non passo, ecco, e poi non saprei proprio cosa dirgli, non so nemmeno se trattano l'inglese quelli. Cioè noi, quando facciamo collegamento con l'inglese, parliamo un po' di inglese, ci facciamo capire, però loro non so se parlano inglese, non te lo so dire, io ho avuto collegamenti con gente che parlava inglese e li ho fatti, però con questi mai ho avuto a che fare. Anto, purtroppo io devo chiudere qua perché sono tra un canale e l'altro e ti annullano. Sono a metà tra il 10 e l'11. È un problema copiarti. stanno arrivando a ben oltre il 9. Ammazzami, mi chiedo se sia solo la propagazione o se stiano anche pompando questi. Не знаю, заехал я так в наш магазин тут, вот, в моей родне, купил у них черепок на комбах. Когда на этот раз там один уезжал, говорит, на мои черепок. Вот эти черепины, небольшой длины, щенок, они не пикировочные, черепочные. Это вот тут вот меня сбило в сердце. Ну да, ну хоть мелкая рыба их не сжирала, бля. И я, мне кажется, сам-то если мне дать, я его не укушу, например. Ну вот, а что, кормушка 40 грамм, плюс на это, да, кормов натолкаешь, это грамм 60, на. Удилище, блин, метра под два, блин, плетенка. Vediamo un po' chi sia rimasto, lasciano, stacchiamo un po'. Antonello mi pare l'avesse chiamato Simona o roba del genere, o la sorella. Adesso stanno crollando i segnali, crollando, come se magari avessero pure i watt normali, ma la propagazione fa le magie. Già sono su lì, sì, aspetta, questo è centrale, questo pure, sono in AM. Non benissimo, Luda, va bene. Signori, buona serata a tutti, buon proseguimento. E ci sentiamo quando capita. Эти вертушкины, на которые не взлёт, на которые он всегда будет кидался. Sì, sì, ti ho ascoltato adesso perché mi stanno crollando il loro segnale, la propagazione si sta richiudendo, per fortuna. Ma, caspita, poi sai cos'è? Loro stanno operando sui loro canali polacchi, con lo 0 kHz finale. È capace pure che vado a chiamare, mi mandi al diavolo perché non so cosa comporta. Se allora abbiamo sanzioni, tipo se parlano all'estero, ora non so come sia la storia. Oppure sono per i cavoli loro e non vogliono sentire gli italiani soprattutto, che sono peggio degli spagnoli. Va bene, dai, comunque da parte adesso io stacco, dai, sentiamo migliori occasioni. Tu, quando puoi, se riesci a trovare un 747, una cosa del genere, quello ti fa guadagnare già due Santiaghi e dovresti riuscire a passare parte anche del QRM, della propagazione, quando non è troppa, capito? Ma di nuovo a bomba sono. Vabbè, dai, ritieniti salutato, dai. Questo è Luca, lo stesso, se stai ascoltando. Ci sentiamo, Antonello, idem con patate. Ciao a tutti, ciao. Ciao, buona serata. Ciao Luca, ciao Antonello. Adesso sto spegnendo, vado in QRD. Ma tutto è potuto, ma...